9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno carissimi ascoltatori, c'è stata l'evoluzione il giorno dell'approvazione alla Camera del disegno di legge Gelmini, che ricordo a tutti era passato in Senato, deve tornare in Senato quindi per l'approvazione definitiva. È ovvio che molti sperano dai suoi detrattori che nel frattempo qualche cosa capiti alla legislatura, al governo a metà dicembre, che quindi il disegno di legge non vada all'approvazione finale. La mia opinione, l'ho sempre sostenuta, era che il disegno di legge originale era più significativamente di rottura e portatore della discontinuità che è necessaria all'interno dell'organizzazione dell'università italiana. Intendiamoci, chi è a questo microfono ha una visione completamente diversa della riforma che bisognerebbe introdurre. Io sono per l'abolizione del valore legale del titolo di studio, io sono per l'autonomia alle università per consentire loro di pagare i professori quanto vogliono, compatibilmente con le risorse e i loro bilanci, per prendersi i migliori che si misurano da quanto poi vengono rapidamente assunti coloro che hanno la fortuna di laurearsi con loro con i migliori stipendi. Questo è il metro per le migliori università. Inorridite se pensate invece che le università sono dei posti che servono ad assumere personale per fare assistenza sociale, il maggior numero naturalmente con la maggior percentuale dei fondi a dotazione che vanno a copertura degli stipendi, come puntualmente avviene da molti anni nel nostro paese. Io ricordo tutti che dal ministro Gui, cioè stiamo parlando dei primi anni 70, il più dei provvedimenti per la messa in cattedra per la docenza nelle nostre università sono avvenuti con questo criterio. Qualunque sia la reazione di fastidio di chi è in ascolto, che pensa diversamente, perché naturalmente ritiene che il concorso nazionale o locale a seconda delle tornate degli ultimi anni lo abbia visto come unico rappresentante del merito in un sistema che generalmente, tutti lo sappiamo, coloro che vi insegnano, coloro che vi insegnano a contratto come capita a me, coloro che lo hanno frequentato come è capitato a me, coloro che lo frequentano ancora, tutti dovrebbero secondo me, di fronte ai numeri dell'output del sistema universitario italiano in termini di laureati su 1000 persone, un terzo o metà rispetto alla media dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, se vogliamo parlare poi di coloro che hanno un PhD, un dottorato di ricerca, stiamo parlando anche lì di meno di un terzo rispetto agli Stati Uniti. Questi sono i numeri del nostro output. Ma c'è chi dice naturalmente il problema fondamentale della riforma era il taglio di risorse. Lo abbiamo ricordato molte volte, il taglio di risorse dei 7 miliardi annuali del fondo universitario in realtà poi è stato ripristinato grazie alle proteste, perché come al solito nessuno entra nell'ordine di idee che poi in questo paese bisogna tagliare dalla spesa pubblica. È vero che noi per l'alta formazione universitaria spendiamo lo 0,8 del PIL rispetto all'1,3% dell'OCSE. Il punto è che noi vogliamo su tutto spendere quanto i paesi più avanzati, dimentichiamo che però noi facciamo un mucchio di spesa pubblica che gli altri paesi avanzati non fanno, per clientela, consenso e sprechi. E ripeto, ho iniziato la puntata dopo i 27.000 precari assunti a tempo indeterminato ieri in regione Sicilia, più del totale degli occupati di Fiat Auto, lanciando il programma, vi ho detto, altri 3.000 nuovi posti alla sanità regionale. Ho sbagliato a dire Campania, perché in questo avviene ancora una volta nella stessa regione, la Sicilia, dove anche già ieri 27.000, quindi 27.000 più 3.000 sono 30.000 in 48 ore in Sicilia. Complimenti a chi fa questo ottimo utilizzo del denaro pubblico. Del resto, dopo il 30 di novembre, ieri, giorno di scadenza fiscale a mare per un bel po' di noi, è il meglio che si può leggere che 30.000 persone in un solo colpo vengono ulteriormente ammesse nel cerchio dipendenti pubblici. Ecco, questo è quello che ci dimentichiamo tutti di dire. In ogni caso, oggi faremo una riflessione aggiuntiva con chi, per la propria esperienza o dati alla mano, ha un'opinione su disegno di legge Gelmini un po' diverso da quello che ha portato ieri nelle piazze a far fare un passo avanti al movimento della protesta degli studenti. Gli studenti sono arrivati tardi al traino dei ricercatori, che sono stati i veri incubatori per mesi di questa protesta. Molte volte l'abbiamo sentito la rete 29 aprile a dire che a loro non interessano naturalmente i posti di docenza, che loro si battevano per il merito e per la valutazione. Sappiamo che il criterio di valutazione è un po' indietro nelle diverse università, e in questo disegno di legge si batte anche per aumentare la quota di risorse a seconda della diversa valutazione di ciò che l'università si fa. Se non che poi gli emendamenti fatti per accontentare i ricercatori, quelli sostenuti dai fini anni eccetera eccetera, puntualmente destinano a 1.500 di loro l'ammissione alla docenza. Quindi mi sarò sbagliato io e chiedo ancora una volta scusa se tutte le volte sono insorti i ricercatori dicendo che tentavo di contrabbandare la loro bellissima lotta per il merito e l'eccellenza nelle nostre università, ma di fatto chi ne ha interpretato poi la protesta, ha pensato a più posti, tanto per essere chiari, a tempo indeterminato, ancora una volta naturalmente. Detto questo, gli studenti però l'ultimo giorno, negli ultimi giorni, hanno fatto un bel balzo in avanti delle modalità della loro protesta: città bloccate, autostrade, ferrovie, le città ieri molte delle maggiori paralizzate. Giudizio mio breve per finire questa rapidissima premessa. Alla domanda: si forma una nuova generazione, un nuovo focus identitario? Ma io ho i miei forti dubbi. Di sicuro io do ragione ai giovani che protestano, che pure secondo me non hanno ben presenti i numeri dell'output disastroso universitario italiano, non hanno ben presente il trend evolutivo, la storia e le responsabilità, in cui condivido anche la fortissima presa in Parlamento degli ordinari e dei rettori, per essere chiari, e io sono molto favorevole nel disegno di legge a queste limitazioni che ci sono nella governance rispetto a prima. Il fatto che l'università gestita dai professori è stato un pessimo risultato nel nostro paese. I professori pensano non ai migliori risultati e alle migliori gestioni, ma pensano, come giusto, innanzitutto a se stessi, alle proprie cordate da mettere in cattedra, come si è visto nel meccanismo dei concorsi. Detto tutto questo, però, questa generazione queste cose non le saprà, ma capisco che ha un furto di futuro che avverte sulle proprie spalle, che si legge nei dati del paese, che si legge nell'esperienza difficile di un posto di lavoro a tempo indeterminato, con le stesse tutele che hanno avuto le generazioni precedenti alla loro. In questo li capisco. In tutto il resto credo che sia molto paradossale che si trovino d'accordo con i ricercatori, e molto paradossale che si trovino d'accordo poi anche alla fine con i rettori, che hanno finito per strumentalizzarli, come è avvenuto a Firenze. Ecco perché la vera rivoluzione sarebbe il giorno in cui gli studenti che ben conosco e con cui ho a che fare, come ho detto loro, diceste: professori, siete i nostri nemici numero uno per come funziona oggi l'università. Il più delle risorse date a voi significa ancora meno risorse data per la qualità, l'eccellenza e il merito. È una rozza semplificazione, ma per capire qual è il giudizio di chi vi parla. E ora la parola a chi è molto più esperto di me, ha molte parole rispetto alle mie migliori da dirvi. Innanzitutto il professor Massimo Mazzotti, che ha un curriculum che vorrei solo ricordarvi, perché Massimo Mazzotti ha studiato filosofia e matematica alla Statale di Milano, poi ha continuato in Francia, in Gran Bretagna, dove ha preso un dottorato di studi sociali della scienza all'Università di Edimburgo, poi è stato postdoctoral fellow presso MIT, Massachusetts Institute of Technology, e presso l'Università di Toronto, ha insegnato storia e sociologia della scienza all'Università di Exeter in Gran Bretagna, e adesso insegna storia della scienza a Berkeley in California, e ci ha mandato una mail effettivamente straordinaria in occasione di una delle nostre puntate, ricordandoci analogie e differenze delle proteste inglesi in corso contro il governo Cameron e soprattutto alla diversità della maniera in cui si stabilizza il rapporto di lavoro della docenza tra Italia, America e le diverse esperienze. Io lo ringrazio perché è in collegamento malgrado il fuso con noi. Professor Mazzotti, buongiorno. Grazie, buongiorno Giannino, buongiorno ai suoi ascoltatori. Anzi, più che altro buonanotte per lei. E sì, ci spiega un secondo come funziona diversamente il meccanismo della tenure, della cattedra e dell'ascesa alla docenza nella sua esperienza? Sì, ma diciamo che più o meno, io adesso non sono aggiornatissimo sugli ultimi sviluppi del dibattito italiano, però sento parlare di precarizzazione in relazione al fatto che ci siano contratti di tipo a tempo determinato di 6-7 anni che precedono in qualche modo il contratto a tempo indeterminato nella ricerca. Questo, da quello che ho visto io, insomma, è un po' la norma poi nei paesi avanzati, nei sistemi universitari con cui ho avuto modo di interagire. Poi ci sono diversi modi di organizzare questo periodo e questo passaggio. In America c'è il sistema della tenure, che probabilmente è abbastanza lontano dalla cultura italiana. In Inghilterra c'è il sistema della probation, ossia dopo 5-6 anni, se un ricercatore ha prodotto in termini di pubblicazioni, in termini di qualità dell'insegnamento, verrà confermato a tempo indeterminato, altrimenti il contratto non verrà continuato. In America la tenure ha una una dimensione un pochino diversa, in quanto vengono consultati degli esperti internazionali e soprattutto nelle università di ricerca più prestigiose ci si aspetta un contributo significativo ad un certo campo di ricerca, altrimenti la tenure non viene data al giovane ricercatore. Però insomma, ecco, un sistema di un qualche tipo di, proprio per la natura del lavoro del ricercatore, secondo me non riesco a pensare ad un sistema che non abbia una qualche procedura di questo tipo per l'entrata poi in ruolo a tempo indeterminato. E comunque anche Berkeley, che è pubblica, vero, lo vogliamo ricordare? Sì, Berkeley, ecco, è un'università pubblica. Anche Berkeley, che è pubblica, gli assistant professor dopo 6-7 anni eccetera eccetera, 2 su 3 vanno regolarmente a casa. Sì, fondamentalmente a quel punto c'è il classico processo di peer review, 6-7 anni, a volte anche un po' di più a seconda dei casi. Se in questo periodo non si è raggiunta una certa qualità sia nell'insegnamento che nella ricerca, il contratto viene in qualche maniera terminato. Di solito poi questi ricercatori trovano lavoro in altri tipi di università e di college che magari sono più dediti all'insegnamento che non alla ricerca di punta. Ora, lei ricorda a un certo punto che recentemente, siccome ci sono state proteste anche da voi, per così dire, lei ha dovuto fare una cosa un po' singolare, inipotizzabile per un professore, un ordinario, un associato nel nostro paese, tirarne fuori qualcuno dalla galera, perché dice: i miei studenti centellinano le proteste, lo fanno anche loro, può essere che occupino, però sanno che poi almeno una notte gli tocca di passarla in galera e poi noi dobbiamo tirarli fuori. Sì, questo arrivando dall'Europa è stato abbastanza sorprendente. Ecco, io poi parlo della mia esperienza perché alla fine è meglio parlare di quello che si conosce, che si fa. Arrivando sul campus, l'anno scorso abbiamo avuto un paio di proteste abbastanza dure e la prima cosa che si nota è che ci sono i furgoni di CNN e NBC, perché quando gli studenti di Berkeley si mobilitano vuol dire che hanno qualcosa di importante da dire di solito, e quindi c'è un'attenzione molto alta anche dei media nazionali. Quindi già da quello si capisce che sta succedendo qualcosa. Dopodiché ho assistito insieme a più o meno 5.000 studenti in una delle piazze del campus di Berkeley a una serie di discorsi dei leader studenteschi che leggevano praticamente la loro interpretazione delle conseguenze dei tagli del finanziamento dello Stato della California e come loro invece avrebbero riallocato le risorse disponibili, che sono molte di meno rispetto a un po' di anni fa, accusando il rettore dell'università di aver fatto le scelte sbagliate, e quindi uno dopo l'altro hanno letto questi documenti, dopodiché hanno occupato un edificio amministrativo per non interrompere le lezioni, e penso nel giro di 48 ore c'è stata una breve mediazione per cui tutti gli studenti si è fatto sì che gli studenti fossero consci delle implicazioni di questo loro gesto, dopodiché l'edificio è stato sgomberato e gli studenti all'interno sono stati arrestati. Io avevo un esame il giorno dopo e un paio di studenti sono dovuto andarli a prendere praticamente in prigione. La polizia di Berkeley è abbastanza fisica in queste operazioni, però in qualche modo è un po' il gioco della democrazia, come è concepito in questi luoghi. Professor Bazzotti, io sono integralmente d'accordo con lei, rendiamoci conto che nel dirlo a Radio 24 ci stiamo attirando ovviamente la nomea, l'accusa, il pregiudizio di essere degli autocrati carceratori. Io ho passato, anch'io, la mia gioventù, appartenevo a un'organizzazione politica, stavo tra i giovani repubblicani, che negli primi anni 70 in Italia essere Ugo Amalfiano era un po' singolare, però andavo anch'io a fare le mie manifestazioni, per esempio internazionali clandestine all'Università di Santiago del Cile, organizzato da quelli che poi sono diventati la classe dirigente del Cile post Pinochet. Insomma, mi prendevo i miei rischi, andavo a fare l'osservatore degli atti di Helsinki nei paesi dell'est quando c'era il comunismo, quindi so cosa vuol dire e so che le manifestazioni arrivano a un punto che è quello dell'aria che si avverte per chi le organizza. Quindi quando c'è una regola come quella lei ci ha appena illustrato, che non impedisce a nessuno di manifestare, ma ovviamente concentra il livello della manifestazione, la decisione di metterla in atto, perché poi si sa che bisogna fronteggiare delle conseguenze previste dalla legge, consente, e non impedisce, ma consente un tipo di manifestazioni contenute, decise, precise nel messaggio. Quando invece si avverte un'area crescente, come è nelle ultime settimane nel nostro paese, per cui i media saranno favorevoli, né polizia né magistratura potranno più far niente perché il governo è il primo in difficoltà, perché stai dando la spallata finale, finisci per entrare con la forza in Senato, per bloccare le città, e tutti ti applaudono e sei l'onda del consenso. La mia opinione è questa, non coinvolgo il professor Mazzotti nel interpretare quello che è avvenuto ieri nelle città italiane come proprio la mancanza del limite preciso, della certezza che a un comportamento legittimo fa comunque fronte un intervento delle forze dell'ordine che devi mettere in conto, devi pensare che valga la pena di metterlo in conto, che questo darà a maggior ragione, ancor più rilievo alla tua protesta, ma tutto nell'ambito di una norma che scatta, perché questo è l'ordinamento di un paese civile che sa manifestare, che deve manifestare, ma nelle misure e nell'ordine di un ordinamento civile. Da noi tutto questo non avviene. La mia opinione è che sappiamo perché, e la mia opinione è che le conseguenze è che ai giovani, i ricercatori che salgono sul tetto, i politici che salgono sul tetto, coloro, soprattutto i politici, che dovrebbero risolvere i problemi, non aizzarne l'insolubilità, danno il messaggio: ragazzi, picchiate duro, date spallate, siete l'onda della storia che arriva, nessuno ve ne chiederà conto, e quindi l'effetto, come a ogni ondata di protesta giovanile nel nostro paese, sarà solo la frustrazione, perché tanto le spallate bloccando le città i problemi non li risolvono. Ora prego il professor Mazzotti, se ha ancora un po' di tempo, di restare con noi, perché proseguo la trasmissione, le telefonate, e credo che la sua esperienza di ordinamenti diversi, dove l'eccellenza del merito e l'output finale sono sicuramente maggiori del nostro e quindi ci dovrebbero fare riflettere, sarà preziosa. E la professoressa Paola Potestio abbiamo anche coinvolto, perché la professoressa Paola Potestio, che insegna economia politica a Roma 3, qualche giorno fa la professoressa Potestio interviene regolarmente sui problemi dell'ordinamento della riforma universitaria. Qualche giorno fa mi ha molto colpito un lavoro che lei ha fatto, pubblicato sul sito Noise from America, dei miei amici Michele Boldrin, Alberto Bisin. Ricordiamo sempre il sito, per chi sia interessato, uno dei pochi siti insieme a Chicago Blog, mio veramente liberisti, e ha pubblicato una tabella riepilogativa molto interessante in cui si sintetizzano in maniera ordinata e precisa gli ingressi nella docenza ordinaria associata negli ultimi anni, facendo un bilancio preciso di chi è diventato professore, come e quando, e qual è in sintesi ciò che ci dicono i numeri di questa ascesa alla docenza italiana. Professoressa Potestio, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno. Vuole che parli un attimo sì, di questa tabella? Sì, perché non credo che sia ben chiaro a chi ci ascolta. Allora, questa tabella illustra la situazione a seguito dei concorsi Berlinguer, quelli che io chiamo i concorsi Berlinguer, vale a dire i concorsi introdotti da una riforma del 99 da parte del ministro Berlinguer, che ha modificato le regole concorsuali. Da allora i concorsi sono diventati sostanzialmente dei concorsi locali, tante commissioni di concorso quanti erano i bandi fatti. Queste commissioni di concorso erano così abbastanza organizzate, abbastanza finalizzate a un certo risultato, e per questo motivo c'è stata una quantità di bandi enorme. Allora, se guardiamo un attimo ai dati, agli ingressi, agli esiti di questa mole di concorsi attivata dalla riforma Berlinguer, ecco, vediamo che dal 99 al 2008 vi è stato, come dire, un ricambio straordinario della docenza universitaria. Lei pensi che solo dal 99 al 2002, quindi le prime tornate dei nuovi concorsi, la categoria degli ordinari è aumentata del 36%, mi sembra un dato assolutamente straordinario. Dal 2004 al 2006 gli ordinari sono aumentati ancora del 13%, e questo aumento particolare intorno al 2005 si è avuto per il fatto che era chiaro che il ministro Moratti, dopo un po' di resistenze e con un coraggio forse leggermente tardivo, però si apprestava a modificare la regola concorsuale e a sostituire le idoneità dei concorsi Berlinguer con un vincitore unico e quindi occorreva affrettarsi, fare bandi per sistemare persone. Il risultato è una docenza che in questo periodo dal 99 al 2008 è aumentata complessivamente del 25%. Mi sembra una percentuale un po' alta per un paese avanzato, con quei dati particolari che le ho citato sugli ordinari. Quindi un ricambio, dicevo, straordinario, il quale ricambio unito ai prossimi pensionamenti, perché insomma noi abbiamo una docenza la cui età media è piuttosto elevata, farà sì questo ricambio che in un arco molto breve, direi 2 o 3 anni, i docenti della riforma Berlinguer dominerà, ossia docenti sostanzialmente senza grande selezione, anzi, con molta calcolazione, con molti concorsi per chi ha una certa esperienza, per esempio io nelle materie analoghe a quella che insegna lei, i concorsi locali moltissime volte, diciamo, hanno un vincitore preassegnato ben noto e tutti i miei conoscenti, amici, colleghi che provano differentemente da questo regolarmente poi hanno dovuto nel più dei casi, non dico sempre, constatare che la ferrea logica delle cordate è una ferrea logica delle cordate. Ora la interrompo un secondo perché abbiamo la pubblicità e ripartiamo poi esattamente da questo punto, che è il punto su cui si batte di più chi dice che i docenti non bastano, facendo una graduatoria comparata da docenti e studenti Italia, resto dei paesi. Pubblicità. Eccoci qua, riprendiamo e abbiamo per pochi minuti a disposizione Paola Frassinetti, che l'abbiamo avuta più volte ospite, è vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, è stata relatrice del provvedimento di riforma del sistema universitario ieri approvato alla Camera, che poi torna al Senato. Quindi due rapide domande per lei. Primo, avere un'opinione intorno alla portata degli emendamenti che sono passati in questi giorni di qualche sofferenza, per così dire, della maggioranza del governo. Secondo, la mia domanda, quella a cui tengo di più, perché poi molti a casa, malgrado il dibattito di tutti i mesi, continuano a non avere ben precisa l'idea. Come mai, visto che coloro che protestano mettono il merito, la valutazione al centro delle loro richieste e così via, una riforma che introduceva novità significative innanzitutto nella gestione delle università per tentare di evitare gli effetti negativi di questi anni, anche con esterni rispetto alla prevalenza dei soli professori del senato accademico. Come mai una riforma che dice che gli stipendi potranno crescere solo grazie a scarti di merito con una valutazione in cui a decidere chi premiare saranno nuclei di valutazione con i professori interni e esterni che giudicheranno il lavoro di ricerca? Cioè, come mai una riforma nata esattamente per rompere la continuità su questo, rompere la continuità rispetto ai concorsi locali, di cui abbiamo appena illustrato con la professoressa Potestio l'effetto in questi anni, viene esattamente, e con qualche successo di massa sui media, presentata come l'esatto opposto di quello che rispetto alla continuità degli ultimi anni rappresenta? Mi interessa saperlo proprio da un esponente della maggioranza, perché quando poi di fronte ai media nel dibattito pubblico alla fine si finisce per non ottenere il risultato a cui si prefiggeva fin dall'inizio il disegno di legge, bisogna a un certo punto porsi il problema di che cos'è che non funziona al di là di quello che c'è scritto. Che cos'è che in realtà riesce sempre a presentare la realtà in maniera molto diversa, pur nella legittimità dei diversi punti di vista, delle battaglie politiche che fa l'opposizione? Ma qual è l'impressione della Frassinetti in proposito? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Io penso che ci sia stata davvero innanzitutto una grandissima disinformazione sui contenuti di questa riforma. Questo primo dato, una grande disinformazione e poi una sorta di presa di posizione dei docenti e di chi vedeva sostanzialmente il pericolo di un cambiamento, una discontinuità dopo tanti anni di galleggiamento della nostra università, riuscendo a coinvolgere gli studenti inconsapevoli del fatto che questo tipo di modifiche fatte all'università andavano direttamente a favorirli. Questo dà anche un po', secondo me, una differenziazione anche interessante da analizzare tra per esempio la contestazione del 68, dove sicuramente una generazione andava contro ai baroni, contro a determinati professori ritenuti inadeguati, e in tutto sommato, a distanza di anni, valutandolo anche più oggettivamente, molto più libera come protesta. Invece questa è sostanzialmente una protesta di chi si finge rivoluzionario, in realtà è conservatore, perché vuole difendere il status quo. E sinceramente, analizzando il testo, le norme più innovative sono proprio norme che garantiscono i ragazzi, anche il fatto per esempio dell'obbligo delle 350 ore da mettere a disposizione per gli studenti, mi viene in mente un esempio che forse è meno conosciuto, dei punti principali. Quindi questo sistema, ovviamente con la strumentalizzazione politica che è da sempre nelle università e nelle scuole, forse sono gli unici luoghi dove l'opposizione al governo può trovare dei riscontri. Poi è facile portare i ragazzi in piazza, perché da sempre, soprattutto negli ultimi anni, le contestazioni avvengono in autunno, poi dopo, quando si avvicinano gli esami, c'è molta più tranquillità. Frassinetti, rispetto al nuovo meccanismo concepito rispetto ai concorsi locali, cioè l'abilitazione nazionale da cui poi si procede per chiamata, alcuni ci dicono il fatto che si proceda poi con le nuove norme alla chiamata da parte degli ordinari del dipartimento, malgrado la norma che è stata approvata ieri, quella antiparentopoli per così dire, per cui fino al quarto grado non sono i preventi, però per come funziona l'università, cioè per le cordate che passavano regolarmente con i concorsi Berlinguer locali, temiamo che alla fine, anche col meccanismo di abilitazione nazionale ma chiamata dall'ordinario capo dipartimento, alla fine la cosa non cambierà molto. Su questo lei che ci dice? Ma io credo invece che l'abilitazione nazionale sia stato un grande cambiamento, poi ovviamente tutto è possibile, truccare le carte ingegnandosi, però ecco, partiamo da un presupposto positivo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Io credo che l'abilitazione nazionale, l'abolizione dei concorsi locali, sostituendola proprio con un'abilitazione nazionale valida 4 anni, sia molto importante. Poi c'è un bando che andrà effettuato ogni anno, insomma credo e ritengo che sia proprio un punto importante e qualificante, insomma. Anche per quanto riguarda i ricercatori, il fatto che ci sia l'opportunità di effettuare questi contratti triennali rinnovabili, io lo ritengo un altro aspetto importante, sempre per parlare della carriera dei docenti. Quindi sono certa che l'abilitazione nazionale demotiverà chi voleva effettuare cordate o trucchetti che purtroppo hanno contraddistinto un po' l'università negli ultimi anni. Io ringrazio l'onorevole Frassinetti. E il punto dei ricercatori, siccome i ricercatori in termini di comunicazione pubblica e politica alla fine hanno vinto la battaglia, perché poi i tetti li hanno inventati loro, e alla fine quando è passata l'idea in realtà che la spallata al disegno di legge Gelmini, questa è la mia opinione, fosse la spallata al governo Berlusconi, la cosa poi è travalicata negli ultimi giorni. A quel punto sono arrivati i monumenti, sono arrivati i blocchi nelle città. Quindi rimango della mia idea che poi quando si ha l'impressione di avere dietro un consenso di ordine diverso da quello dei provvedimenti per i quali o contro i quali ci si batte, quello è ciò che poi fa prorompere la protesta come un'onda in continua espansione. Sentiamo un po' di telefonate e poi con la professoressa Potestio vediamo di rispondere dal suo punto di vista. Iniziamo con Marco che ci chiama da Prato. Prego Marco. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo proporre un paio di concetti. Il primo è questo: sono perfettamente d'accordo con il professore Mazzotti. Esatto, che insegna a Berkeley. Che diceva che il sistema anglosassone vive di contratti inizialmente sono precari e che poi si stabilizzano su base meritocratica. Si stabilizzano o nella maggioranza dei casi, perdoni, non si stabilizzano. Questo è il sistema anglosassone. Certo, però quelli che si stabilizzano è su base meritocratica. Il problema qual è in Italia? Che, trasferendo la stessa cosa in Italia, che negli Stati Uniti e in Inghilterra le persone di valore accedono a quel tipo di contratti tra i 25 e i 30 anni di età. In Italia, prima dei 40-45, non se ne parla nemmeno, e quella è un'età in cui teoricamente uno dovrebbe aver avuto già la vita costruita, cosa che in questo modo non è possibile. Ora mi si potrebbe dire, con questa riforma si va verso il modello anglosassone e magari fra 10, 15, 20 anni sarà così. Io dico due cose. Primo, può darsi, fatto sta che intanto bruciamo intere generazioni di ricercatori, quelli attuali. E secondo, c'è una grossa differenza, che negli Stati Uniti la meritocrazia si fa davvero, perché la ricerca si fa sul serio, ci sono fondi. Sì, e mentre da noi non la facciamo, continuiamo a non farla e stabilizziamo tutti. Questa è la sintesi. No, allora Marco, però qua ci bisogna che ci intendiamo. Non voglio polemizzare, ma per capire, perché sembra che nel resto del mondo è possibile, da noi no, perché ci sono i cattivi ordinari associati. Io in molti casi sono d'accordo con lei. Ergo, siccome è così, stabilizziamo tutti, ricercatori, no? Ma è che prima bisogna dare gli strumenti e quindi fondi distribuiti non attraverso potentati ma attraverso il merito, gli strumenti per poter davvero competere sulla ricerca in piano, sul piano internazionale. Marco, ma la domanda è, questo disegno di legge è Gelmini, a chi chiede, Marco, a chi come lei chiede merito, questo disegno di legge per la prima volta introduce, tardi, male, sapendo che i criteri di valutazione sono fermi al 2003, ma intenta di introdurre qualcuno di questi elementi rispetto al passato in cui non c'erano o no? È caduta la linea, questa è... Forse sì. Non sono stato chiaro. Io ritengo che per introdurli questi contratti dovrebbero essere accessibili all'età di 25-30 anni, subito dopo il dottorato, e non a 45. Se fosse così, allora sì. Attualmente no. Secondo luogo, la meritocrazia si fa con gli strumenti. Se io non ho niente, perché in Italia ricerca all'avanguardia in campo fisico, nucleare, biotecnologico, che è la mia esperienza, e altre, non ci sono i soldi per competere, e è un dato di fatto, gli stanziamenti stessi si riducono sempre di più, se non ci sono gli strumenti per competere, con cosa competo? Va bene, alla Marco. Fine risulta, Marco, che... io ti ricordo che il mantra che il fondo è stato ridotto, il fondo è stato ripristinato. E siccome io su questo non so cosa dire, i numeri qua in Italia sono ridotte? No, e se è stato ripristinato, è passato da 7,1 a 6,97. Ma non lo so, Marco. Dopodiché, certo, ripeto, rispetto alla media dei paesi OCSE, noi spendiamo di meno e spendiamo ancora di più. 30.000 assunti in un solo colpo ieri in Sicilia, allegria. Cioè, io vi faccio i miei complimenti. Comunque, sentiamo. Giovanni da Roma lo sentiamo dopo. Sentiamo Francesco dalla provincia di Latina. Pronto? Francesco, buongiorno. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo praticamente, innanzitutto, sono abbastanza d'accordo col collega, con il signore che ha parlato prima. Io sono un docente universitario. La questione è che, diciamo, i ricercatori che stanno protestando, diciamo, non è che stanno protestando per una stabilizzazione di un posto, diciamo, loro già hanno una posizione permanente nell'università, stanno protestando perché questa figura di ricercatore viene in un certo senso abolita. Sì, viene, no, ho capito, certo che ho capito. È tutta il mese della riforma che spieghiamo che la discontinuità è quella di dire per chi non avrà la docenza dopo la protezione di altri 3 anni, altrimenti perde il contratto. Quindi la discontinuità per non consentire che la terza fascia diventi l'accesso automatico alla docenza è il punto che ha creato la protesta dei ricercatori. Se lei continua a dirmi che la protesta dei ricercatori è per il merito, quando poi gli emendamenti dicono vi diamo 1500 posti, continuiamo a dire una cosa per l'altra. E io su questo non dirò mai che la protesta non è per avere i posti, perché chi ne ha interpretato il mandato in aula gli ha dato i posti. È vero o non è vero secondo lei? Sto mentendo perché mi paga un comitato contrario ai ricercatori? Perché molti pensano questo, posso dire che non è vero. Però può essere, Francesco, la sua impressione. Sono completamente fuori orbita a vederla così? I ricercatori il posto già ce l'hanno, non è che devono, il fatto che loro passano da ricercatori ad associati dopo aver fatto, diciamo, una valutazione di merito che secondo me è fondamentale, diciamo, dal punto di vista salariale non li cambia quasi nulla. Io glielo posso assicurare io, perché, diciamo, mi trovo nella stessa condizione. Io praticamente, diciamo, sono risultato idoneo in un concorso da ordinario e dovrei passare da associata. Pronto? Sì, vada. Dovrei passare da associata ordinaria, prendere il cosiddetto upgrade, a parte che tecnicamente è impossibile, ma il mio salario rimarrà lo stesso per non so quanti anni. Quindi il problema non è un problema salariale. Ci sono tanti problemi. Il problema, prima di tutto, è, diciamo, abolire questa fascia. Cioè, non, è pieno di... l'università, esistono giovani e meno giovani che praticamente sopperiscono a delle, diciamo, carenze dovute anche ad organico, facendo lezioni per 300-400 euro, contratti per 300-400 euro, sì, e sì. Questi saranno precari a vita. Allora il problema secondo me è investire innanzitutto, insomma, la mia valutazione sull'università, la vera riforma che bisognerebbe fare è andare ad incidere sul reclutamento. Quello è il problema. Questo è uno dei punti sui quali, come abbiamo illustrato, il meccanismo per l'abilitazione rispetto al concorso è un tentativo di fare stato del disastro dell'esperienza complessiva dei concorsi, chiamiamoli come ha chiamato la professoressa Potestio Berlinguer. Dopo le informazioni sulla circolazione stradale chiuderemo proprio con la professoressa Potestio. Eccoci tornati in studio, una rapida telefonata ancora a Paolo da Lecce. Prego Paolo. Paolo, sei in linea? No, Paolo da Lecce non è in linea evidentemente. No, sentiamo Giovanni da Roma, sei in linea? Buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, io sono un ricercatore che ha passato 10 anni in Inghilterra, quindi conosco bene il sistema inglese che ha le migliori università, tra le migliori università al mondo. Però poi sono rientrato nel 2002 in Italia, ho trovato un sistema feudale e mafioso, devo essere sincero, sono ancora a contratto e ho 46 anni. In che materia, anche di facoltà? Io in biologia e ho trovato dei concorsi ovunque dove io mi sono affacciato truccati, cioè erano dei concorsi blindati. Confermi quello che ho detto prima, perché alcuni dicono come sempre le accuse senza fare i nomi. No, assolutamente è una cosa proprio sistematica. Purtroppo però sono preoccupato per questa riforma qua, perché la riforma Gelmini introduce l'abilitazione, ma l'abilitazione, anche il professor Mazzotto me lo confermerà, non esiste negli Stati Uniti, non esiste in Inghilterra. Infatti. E quindi è una cosa burocratica che introduce, diciamo, un elemento secondo me complicato. Due, rimane, diciamo, l'università che dovrà scegliere tra questi abilitati. Quindi sarà un processo difficile, perché tenteranno ovviamente di prendere sempre i loro candidati interni, anche perché gli costeranno di meno nel passaggio da ricercatore ad associato. Io ringrazio Giovanni, questo è il punto, è che finché noi considereremo la professione docenza universitaria come una omologata a livello nazionale in quanto funzionario della pubblica amministrazione, occorreranno meccanismi di selezione burocratica di un tipo, di un altro, eccetera, eccetera, che partano dal presupposto che il ruolo è omologato ed uguale per tutti. Quello è ciò che si rompe, abolendo il valore legale del titolo di studio, per chi la pensa come me, pazzi, minoritari, lunatici, ovviamente. Paolo da Lecce, invece, cosa vuoi dirci? Eccomi, sono finalmente qua. Sì. Volevo dire questo, a chiusura di tutta questa vicenda che ha visto l'approvazione del decreto. Io sono un ricercatore all'università. No, non è chiuso niente, okay. Devo tornare al Senato, quindi la legge non è vigente. La dirittura d'arrivo si vede. Comunque, io volevo dire questo, io sono un ricercatore che lavora all'università da 5 anni, io ho 46 anni. Una cosa che non è stata detta è che noi abbiamo fatto ricerca per moltissimi anni come assegnisti, come dottorandi, sì, anche di qualità, sì, spremuti come limoni. Vero. Veniamo immessi a 40 anni, se non oltre, nel ruolo dei ricercatori, che è un, sì, ruolo improprio, è un vestito che ci sta stretto. Noi dovremmo essere docenti a tutti gli effetti, noi dovremmo e potremmo essere professori, sì, associati. Non c'è, io non mi vergogno a dirlo. Alla mia età, per il mio ruolo, il presidente del CNR diceva che, giustamente, in alcune trasmissioni fa, che un ricercatore si evolve nel corso del tempo, la qualità, il tipo di ricerca che fa si evolve, soprattutto poi se è associata alla funzione di docente. Noi siamo entrati, alla fine ci hanno chiamato per fare didattica, perché era di quello che l'università aveva bisogno, aveva bisogno di figure con una certa esperienza, di 40 e più anni. Paolo, io conosco il punto di vista. Però l'effetto di 40 anni di politica che ha promesso nuove emissioni, contrattisti, gli assegnisti, i borsisti, per poi regolarmente allargare le maglie sotto elezioni, perché lo ha fatto in cambio di consenso, per tenere buoni la lobby dei docenti in via di formazione docenti, è questo che ha accumulato l'età lunga media di attesa nelle università, per un blocco di connivenza tra politica, che così ha amministrato le riforme per diventare docenti nel nostro paese, e dall'altra l'espressione delle diverse categorie di contrattisti, assegnisti, borsisti, eccetera, e oggi è posto è il turno dei ricercatori. Tutti giustamente dicono: non è colpa nostra, ma della politica che ha fatto le regole così. Noi abbiamo 30 anni, 40 anni, 50 anni, abbiamo le famiglie, abbiamo le cose. Che posto è questo? E questo meccanismo di continuità che va rotto, che va rotto, lo rompe abbastanza questa riforma? Per me no, ma in qualche modo sì. Ed è questo il senso che ha portato i ricercatori a dire protestate e gli studenti, che dovrebbero vedere questa maniera di dare le risorse ai professori come nemica, a dire avete ragione voi. Per me questi studenti non hanno capito molto bene, per quanto il futuro ai loro danni sia molto grave. Devo richiamare la professoressa Paola Potestio, perché è chiaro, l'ho fatta stare un'ora per parlare un minuto e ho fatto la mia consueta figura di maleducato, e quindi mi scuso con lei. Ringrazio, oltre a lei, per la pazienza il professor Massimo Mazzotti da Berkeley, che ci ha ricordato che lì gli studenti protestano e fanno una notte di carcere. Però, e vi dirò, secondo me passerò per autocratico, ma ricordarsi che la protesta, quando si bloccano le città, comporta una sanzione, è una misura che differenzia le democrazie dal caos. I 30.000 assunti in 48 ore in Sicilia sono caos allo stato puro, che paghiamo noi contribuenti. Grazie a tutti, grazie a coloro che hanno consentito questa messa in onda. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.